si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. L'ho già annunciato agli amici che mi seguono su Facebook, molti storceranno la bocca, ma cos'hai, un pubblico privilegiato? Bene sì, un pubblico privilegiato, delle persone che sanno in anticipo quello che è l'argomento. Seguite la traccia, la scia di queste persone, accendere un computer non dovrebbe essere un'operazione impossibile. Ormai in ogni casa c'è un computer, e violate il segreto della cameretta di vostro figlio, accendete la macchina e scoprite conosciuta con cui lui fa i suoi videogiochi e vi accorgerete che vi si aprirà un mondo. Il numero per intervenire a questa trasmissione è sempre 800 24 0024. Oggi parliamo di italiani e televisione. Sembra che la cultura generale del nostro paese nacqua fortunosamente e miracolosamente l'anno 1954, anno che dette anche a me i natali, quando si accese il primo televisore in Italia. Da allora l'Italia si è riflessa sensualmente in questo mezzo che sembrava così meravigliosamente adatto a riprodurre ogni vizio e ogni splendore dei nostri concittadini. All'inizio la televisione era un mezzo, era qualcosa che ci apriva un mondo sconosciuto e misterioso, era l'occhio aperto nel salottino buono delle famiglie italiane verso un mondo fantastico. Poi c'è stata una lenta deriva. Da mezzo cominciò a diventare un fine, è diventato il luogo in cui ognuno di noi aveva l'ambizione di rappresentarsi, perché la vera promessa della televisione è che per tutti ci sarà spazio prima o poi. L'importante è riuscire a violare quelle che sono le porte segrete dei casting televisivi. E oggi la televisione rappresenta il suo momento di massimo tracollo. Oggi la grande moda giornalistica è dire che la televisione sta morendo. Modestamente, da questo microfono, lo diciamo da 20 anni circa, che ormai è un cadavere in stato avanzato di putrefazione. Ma oggi molto più. La programmazione televisiva non rappresenta altro che la formaldeide, che ancora dà l'aspetto quasi vivo a un cadavere di teleutente che sta lì accasciato sul divanetto, ormai privo di prospettive, privo di interesse, privo di voglia di viversi la vita. E la televisione in realtà dovrebbe rappresentare il senso medio estetico del nostro paese. Ancora la televisione ci illudono, perlomeno chi la fa, chi la vende, chi la produce, la casta ristretta degli autori televisivi, chi saranno mai questi uomini che raccontano il nostro mondo attraverso la televisione, ci fanno pensare che l'indice di ascolto della televisione, il gradimento alla televisione rappresenta mediamente chi rappresenta gli italiani. Ma se voi interrogate ogni italiano che trovate nella metropolitana, che trovate per strada, che incontrate nel salotto buono dei vostri amici, vi dirà: io non guardo mai la televisione, queste sconcezze, questi programmi terribili, io guardo solo i bei documentari di Piero Angela. Ma allora vi spiegate come mai cose del genere ancora hanno un grande successo? Resta il fatto che ancora adesso milioni di persone da tutto il mondo vanno a Vienna a vedere ancora questi balli. Questi balli, sì, io faccio presente, vanno da tutto il mondo per vedere questi balli. I principali del ballo delle debuttanti proprio di Vienna è stata Paris Hilton. Bella cosa. Continua la scalata delle pop, continuano a vincere le pop. A questo punto un sorriso, ragazze. Secondo voi perché? Che non ci hanno capite. Non vi hanno capite. Voi continuate a dire che non vi hanno capite. No. Che carine. Siete io, così però. Carine, così brave quando ballate. Cos'è che manca? Siamo passate voi? Per quelle con la puzzetta sotto al naso, che non è per niente così. Siamo la ragazza. E pensare che Rita La Chiesa si lamenta oggi sui giornali perché hanno chiuso il mio programma in anticipo, il ballo delle debuttanti, che rappresenta l'ultima edizione stanchiccia del vorrei ma non posso delle fanciulle italiane, divise fra fanciulle chic e fanciulle coatte, unite in realtà da una coattaggine fisiologica che le metteva tutte sullo stesso piano. E queste ragazze che hanno provato biecamente di riprodurre un format di successo che è Amici di Maria De Filippi, in questa chiave, in questa declinazione dell'ambizione di appartenere a un mondo blasonato a cui nessuna di loro appartiene, apparterrà mai, con quella nobiltà posticcia da tubo catodico, Costantino della Gradesca, pur personaggio divertente, assieme a Platinette, assieme a Pierluigi Diaco, che doveva dare questa svolta politicamente corretta a Frociarola, alla trasmissione trasmissione, le debuttanti ballavano tra donne o ballavano tra uomini per far vedere che loro erano politicamente avanzate, erano illuminate dal punto di vista della percezione del mondo. Ma questo programma è stato chiuso perché poche persone lo guardavano, forse un passo avanti troppo ardito per le vecchie e per le cadaveriche rappresentanze della popolazione dell'utente italiana. 800240024, voi la guardate, non la guardate, che fate della televisione? C'è una povera schiavetta che lui ha preso prigioniera tanto tempo fa e che costringe tutte le volte a ventilare. Per fortuna Valeria andò sta. Valeria, chiedi scena. Tutti gli altri vanno via, via da qua, solo io e te. Nessuno in più, solo io e te. Guardami negli occhi. Pensavo la televisione aver risolto la sua equazione di emorragia di pubblico con i reality show. Il reality show è la maniera per mantenere la grande promessa. C'è televisione per tutti, c'è vita oltre la vita per tutti, tutti potranno entrare in televisione. Quindi da 7 anni a questa parte, gloriosamente in alcune fasi, un po' meno gloriosamente in altre fasi, la televisione ha cominciato ad aprire le porte dell'accesso alla sua visibilità anche al pubblico della televisione. Improvvisamente si è cambiata l'ottica. Coloro che stavano davanti al televisore improvvisamente si sono visti riflessi all'interno della televisione per quello che loro erano, nelle loro funzioni corporali, affettive, relazionali e più banali, quotidiane. Chiunque senza nessun altro talento che essere un probabile elemento trasformabile da carne umana in pixel televisivo poteva entrare nel grande spettacolo. Ma naturalmente dopo un paio d'anni di reality show il pubblico dei reality è diventato un pubblico di professionisti di reality. È un po' la differenza fra il film porno professionale che nessuno guarda e il film amatoriale che sembra attirare tanto l'attenzione del pubblico. Una cosa è gettare l'occhio indiscreto dal buco della chiave del nostro vicino di casa, una cosa è vedere attori che simulano atti affettivi. Beh, anche il pubblico del reality improvvisamente è diventato un pubblico di professionisti. E quindi quale sarà la deriva? Quale sarà il momento di affezione per cui la gente continuerà a guardare questa vecchia, antica, stantia televisione che sembra prodotta ormai da avanzi cerebrali del nostro paese? 800240024, voi la guardate, non la guardate, la tenete in casa accesa come luogo in cui vi aspettate possa accadere qualcosa o porta di uscita dal vostro quotidiano, immaginando e sperando che anche voi domani farete parte della televisione? Non so se sono emozioni vere. Non so se il nostro Roberto Cenci è d'accordo, il pubblico. Io direi di sì. Io vorrei risentirlo un pezzettino, il finale. Vabbè, queste sono emozioni vere, quindi io. Insomma, io ce l'ho lì il mio papà. Papà, mi piacerebbe tenere la mano nella tua. Aspetta, mo perché. Aspetta. Papà, mi piacerebbe tenere la mano nella tua come quando andavamo al cinema a vedere Anche gli angeli mangiano fagioli, o lo chiamavano Trinità. E tu, siccome era una cosa da uomini, dicevi a mamma: noi andiamo dal dottore, eh? E mamma faceva finta. Il titolo del programma sarebbe Volami nel cuore, ma se non fosse la radio e se non avessi rispetto del pubblico, aggiungerei altre istigazioni nascoste nella sottotraccia di questo titolo. Ma questa è una rappresentazione abbastanza fedele dell'aspetto realistico della televisione. La televisione a un certo punto ha cominciato a confezionare le emozioni, confezionare i sentimenti, ad essere il grande laboratore di ogni istanza che ha sempre attraversato l'umanità. Hai una disgrazia in famiglia, hai un morto ammazzato, hai un male incurabile, hai un figlio che si droga, hai una moglie che fa gangbang. Beh, devi andare in televisione e raccontarlo, naturalmente, perché è il grande luogo in cui sembra che tutti i mali sembrano dissolversi nella comune accettazione del proprio dolore. 800240024, cos'è per voi la televisione? Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato. No, grazie a lei, è il primo che ha coraggio di parlare. Come se oggi avessi fatto un programma, vi mettete le dita nel naso. Se ne stanno tutti nascosti perché sembra il più vergognoso dei peccati ammettere che si guarda la televisione. Guarda, però le ho appena tolte le dita dal naso. No, vabbè, tanto non vediamo. È una cosa schifosa comunque, non comunque, si dice. Comunque, senz'altro, sì, beh, paragonabile a quello che si vede in televisione. Beh, lei ha visto che ha confessato che si scaccola. Confessi anche che guarda la televisione, così almeno sarà no, il primo. Assolutamente. Ecco, lei fa parte delle vergini. Guardo solo solamente quei programmi di cui parlava prima lei, Piero Angela o qualche cosa di questo genere, che se non altro sono un po' istruttivi, perché tutto il resto è veramente una noia mortale. Sì, ma oddio, non è che i programmi di Piero Angela siano una vertigine che ci prende per mano e ci porta verso mondi fantastici. A parte le tigri, i leoni e i viaggi nel nostro corpo, non mi sembra di aver nulla di particolarmente originale. Ecco, perché lei attribuisce alla televisione questo senso didattico quasi punitivo e non la vede come un luogo di evasione? Perché la maggior parte degli italiani che la guardano, guardando le stronzate di cui abbiamo fatto sentire lieve traccia, sembra che non la guardino certo per aumentare il proprio bagaglio culturale. No, no, no, assolutamente. Guardi, io sono il proprietario di un bar, quindi di chiacchiere da bar ne sento parecchie. Lavoro 12-13 ore al giorno in questo locale e nessuno guarda quei programmi osceni, tranne pochissime persone. Sì, guardi, ci dobbiamo mettere d'accordo su un dato. Se i dati di ascolto della televisione premiano, caramba che sorpresa, dopo 7 anni riappare il restauro della Carrà che fa il solito giochetto, entra una ragazza piangendo in studio, racconta che ha un padre, amico, marito, amico di famiglia, lontano, perso stranamente sempre in un lontano paese del Sud America preferibilmente, ma anche del Centro America. Chiunque si immagina che da lì a qualche minuto entrerà questo personaggio e farà la sorpresa. Eppure l'ascolto ha premiato ancora questo personaggio. O siamo così abituati alle icone del passato? Siamo diventati poveri. Siamo diventati poveri di tutto, guardi. Veramente. Sì, ma non stiamo sempre. Noi siamo quel pubblico, non è che siamo diversi. Lo so. No, noi siamo quelli. Ma la domanda che mi faccio io, no? Considerando quanto guadagnano perlomeno gli attori principali di questa bieca televisione, quanto dovrebbe costare un buon libro per passare veramente 2 ore in grazia di Dio e in pace? Guardi, io le sono molto grato perché lei, in piena buona fede, però mi ha confezionato e mi ha messo in mano quello che è il più terrificante luogo comune nei confronti di coloro che parlano la televisione come qualcosa di peccaminoso. Legge un buon libro. Ora, in Italia si stampano una dismisura di libri, più libri di quanti si possa umanamente elaborarne nella lettura. Non mi sembra che gli italiani abbiano poi vantaggi da questa lettura, ma non mi sembra che un ottimo programma televisivo possa essere considerato di rango inferiore rispetto a un pessimo libro come tanti se ne stampano. Eppure esiste questo luogo comune che libro è buono e televisione è cattiva. Perché continuiamo a attribuire ai mezzi di comunicazione contemporanei, avanzati, un carattere ludico e quindi che ci allontana dalla retto apprendimento, e invece continuiamo a pensare che libri di cui se ne stampano di infami possono, solo per il fatto di essere libri, essere qualcosa di positivo. 800 24 00 24, adesso tiro fuori il mio asso dalla manica. Buongiorno signora Gaia Camossi. Buongiorno. Avevo in studio una sorta di reliquia della televisione di cui stiamo parlando, anzi una reliquia di uno dei momenti più singolari, più felici, più interessanti della televisione italiana. L'anno 91-95 ha segnato un cambiamento radicale nella televisione. Dalle bambine dello Zecchino d'Oro, dalle gemelle Kessler col collan contenitivo, improvvisamente è apparsa una sorta di brivido di trasgressione nella televisione, è chiamato Non è la Rai. E Gaia Camossi era una delle ragazze Non è la Rai. Come ricorda quel periodo felice della sua vita, Gaia? Beh, molto divertente, assolutamente. Era un po' come andare a una scuola completamente femminile, dove si formavano i vari gruppetti di amiche, amiche, nemiche, tutto. Lei quanto. Come fu reclutata da Boncompagni? Beh, io ho cominciato con Domenica Inn, quindi... Era già del giro? Ero già del giro, sì. Ecco, ma come si entrava negli anni 90 nel giro? Oggi ne abbiamo avuto qualche traccia anche nelle cronache nemmeno troppo recenti. Qual era la possibilità di essere selezionate per andare in televisione? Io sono andata a fare un provino, abitavo a Firenze a quel tempo, sono andata a Roma a fare un provino grazie a un'amicizia di mia madre con un parente di una sua amica che lavorava lì, e sono andata a fare questo provino. Ho cantato la solita canzone che si cantava, il cielo in una stanza, accompagnata da... Lei aveva studiato comunque? Avevo studiato a scuola. Ah, sto dando lei, diamoci del tu, perché se no sembra... ci davamo del tu prima. Perfetto. È sì, un'altra delle ipocrisie marzullesche della televisione. Darsi del lei anche con le persone con cui magari si va a pranzo tutto il giorno. Noi ci siamo conosciuti da poco, ma ci diamo del tu. È anche più facile. Allora Gaia, tu sei entrata nel giro di Boncompagni. Sì. Tu sai quante se ne dicevano. Insomma, voi foste una sorta di serraglio amoroso dei sogni e dei fantasmi erotici di Boncompagni. Come si comportava con voi Boncompagni? Ma con me personalmente sempre molto bene. Devo dire che tutte queste cose di cui se ne è parlato a me non sono mai accadute. Beh, facciamo parte anche del fascino del programma, tutti invidiavano e immaginavano questa sorta di serraglio di ragazzine scatenate di cui lui era il grande regista, le telecomandava con le cuffiette, con i microfonini a distanza. Il bello nella Rai, io ricordo che negli anni Ottanta andavo al Centro Palatino e c'era la fila di persone dalla prima mattina, striscioni scritte sui muri, i ragazzi non andavano a scuola per andare a seguire da lontano e sentire l'aria le ragazze nella Rai, però rappresentavano il sogno televisivo di una generazione che andava dai 9 ai 90 anni. Voi eravate completamente trasversali, avevate questa percezione di essere al centro dell'attenzione televisiva nazionale? Sì, sì, era veramente incredibile, perché si arrivava lì ed era un mondo a parte, cioè ti aspettavano tutti questi ragazzini, ragazzine anche, perché comunque ognuna diventava l'idolo di anche di ragazzine, quindi non era solo esclusivamente un mondo immaginario maschile. Ma riuscivate ad avere una vita normale poi? Come facevate a studiare, a stare in famiglia? Allora io ho iniziato a lavorare in televisione, avevo appena finito avevo preso la maturità scientifica, poi ho fatto dei tentativi. Quindi eri già maggiorenne, eri sì, già sì, grande. Sì, ero già grande. Dei tentativi universitari, ma lavorando, guadagnando facilmente, perché poi c'è anche questo. Il Hai fatto dei facile. Bei soldini allora, sì. Ho fatto dei bei soldini che ho anche speso tutti, ahimè. Giustamente, la vita è fatta per questo. Velocemente, Anna, buongiorno. Da Latina, volevo dire una cosa, cioè, si parla di TV, la TV, sono d'accordo con lei, non è demone, la TV deve avere il suo ruolo di informazione quando serve, ma anche di divertimento. Brava, certo. Che può essere anche banale, quale può essere un reality. Io ammetto, guardo ogni tanto reality, certo non mi faccio tutte le puntate, non so neanche come si chiamano, però ogni tanto mi piace vedere, non so, il VIP in difficoltà, perché dico, ui, anche lui è un essere umano, piange se non ha il suo piatto di riso. No, finalmente, Anna, finalmente qualcuno che ammette la grande colpa contemporanea di guardare la televisione, sennò sembra che siamo tutte verginelle e che la televisione la guardino soltanto un piccolo numero di anime perdute. Quindi è anche divertente guardare le sconcezze televisive, perché in fondo è uno spettacolo con cui si può parlare, ci si relaziona, è l'argomento comune delle chiacchiere fra amici, no? Ma assolutamente sì, ma io dico, la televisione a seconda delle regine della persona in un certo momento gli può servire, non so, un documentario che può essere Voyager o quello che vuole lei, ma magari alla sera dopo 10 ore di lavoro uno ha voglia di vedersi magari un talk show, ha voglia di vedere il comico, ha voglia di vedere, perché no, se è maschietto, magari la bella ballerina in costumi ridotti, dov'è il male? Ben venga la bellezza di una donna. Cioè, oppure vedere la banalità appunto di un reality. Ecco, io quello che non, ad esempio, personalmente, ma perché a me non piace le soap opera, queste cose, lungaggini, eccetera, però mi guardo volentieri il cartone animato o la bella favola, cioè, però mi guardo allo stesso tempo anche. Perfetto, Anna è l'esempio lampante di coming out che avevo sollecitato all'inizio della trasmissione. 800 24 00 24, dopo la pausa per le informazioni della borsa, spero che altri ammetteranno come, in che maniera, con quale piacere o con quale disgusto guardano la televisione. 800 24 00 24, chiamate pure, raccontate il vostro rapporto con la televisione, vi sentite riflessi alla televisione, anche voi leggete un buon libro, attenzione che i denti della motosega potrebbero aggredire le vostre caste ginocchia, per coloro che ancora mi diranno preferisco leggere un buon libro. Ricordo che ho in studio Gaia Camossi, residuo vivente delle ragazze non è la Rai, in questo momento Emiliano Morgia, un fedelissimo dei mille di Facebook, ha pubblicato sul mio profilo di Facebook un videoclip preso da YouTube dove tu canti la canzone Caruso. Eri tu a cantare? No, naturalmente no. Adesso lo posso dire che la mia nonna non c'è più, perché non si poteva dire nemmeno a lei, però in realtà no. Alla nonna l'avete fatto credere che tu alla sapevi nonna, cantare? Sì, esatto. E lei ogni tanto mi chiedeva, mi ricanti questa bella canzone? Quindi le ragazzine della Rai erano praticamente dei simulacri sintetici per vendere abitini, allora c'è una linea molto conosciuta, sì, per lanciare brand, come si dice oggi, ma non sapevano nemmeno cantare. No, molte non sapevano cantare. Cos'era, una corista in playback che faceva la voce? Esatto. Anche Ambra non cantava? Nemmeno Ambra non cantava. Ecco, questo abbiamo svelato, uno dei grandi bluff della televisione italiana. Ambra non sapeva cantare, ma forse qualcosa sapeva anche fare. Tra le tante novità, qui su Italia 1 ci sarà anche un certo numero di debutti. Ragazze di Non è la Rai che giocheranno insieme a voi. La prima deve rompere il ghiaccio, ha solo 15 anni. Accoglietela con tutto l'affetto possibile. Vogliatele bene perché è veramente emozionata. Ambra. Questo era il debutto di Ambra in televisione, poi ne fece di strada, addirittura ha vinto un Davide Donatello per un film, Saturno Contro, dove fa numero 7 battute, però naturalmente fa parte ormai di un sistema in cui la riconoscibilità va molto oltre la quantità della prestazione, quello che importa è la qualità. Vedete? Solo quando ci sono io però, perché io sono una fata, visto? E vi ricordo che ho anche il mio diario qui con me, non dimenticate il mio diario! Ambra c'è e in ogni dove. Ce l'hai il mio poster? Il tuo poster no, però il tuo quaderno. Ai. Vuol dire che te lo manderò. Però lo devi appendere nella tua camera. Certo. Ogni sera, insomma, un pensierino, capito? Ambra. Vedo che capisci al volo, soprattutto... Sono molto intelligente. Ambra che istigava attività autoerotiche, un suo fan, gli mandava al fan il... poster, metterlo sul letto, ogni sera fa un pensierino. Era bravissima a dire queste cose, mai probabilmente una quindicenne sarebbero venute in mente, ma lei altro non era che il simulacro parlante. Ogni cosa che lei diceva era Buoncompagni, ambrizzato, che parlava nelle sue orecchie. In realtà Ambra era l'anima nascosta di Buoncompagni che prendeva corpo, era il suo golem, il suo burattino, lui la teleguidava. Ogni pensiero lubrico di Ambra, ogni allusione, ogni sottile vellicatoria domanda al pubblico maschile, altro non era che ciò che giaceva nel profondo dell'immaginario di Gianni Buoncompagni. Gaia, qual era il vostro rapporto con Ambra? Come vi guardava dall'alto in basso? Lei era la reginetta, la cocca del padrone, era un po' il capo vostro. Beh, personalmente io non avevo un rapporto di amicizia con lei, era anche molto più piccola di me, quindi non trovavo molte cose in comune. Pensa che oggi la legge impedirebbe un programma del genere. Mi disse proprio un'autrice storica di Nella Rai, oggi non potremmo mai fare un programma così con delle minorenni così sovraesposte. Erano accompagnate dai genitori, comunque, rigorosamente. Beh, te li raccomando i genitori, che li ricordo, guarda, ho un'esperienza personale. Vedevo le mamme fuori della sala d'attesa del centro Staffa Palatino che portavano le figlie. Sarebbero state perfette. E poi, in effetti, il casting di Maria De Filippi le consegnò la gloria. Sono le signore che urlano in Uomini e Donne. Sì. In realtà il vero spirito libertino già faceva in quelle signore, non tanto nelle figlie che ancora erano, ahimè, innocenti. Beh, invece questo senso di rappresentare in fondo un sogno erotico, inespresso, mi ha detto chiaramente, ma lo eravate, lo sapevate benissimo, che gli uomini facevano la bavetta da 9 a 90 anni per voi. Beh, io ho avuto una lettera di un ammiratore, fan, come vogliamo chiamarlo, ed era un signore che aveva più o meno 70-75 anni, mi scrisse una lettera veramente carina, bella, e mi rimase impresso... E che voleva? Si voleva complimentare per quello che vedeva dall'altra parte dello schermo. E... Ma le mandava caramelle oppure? No, niente, è stata solo questa lettera. Io non risposi neanche, perché allora, con dispiacere lo dico adesso, ero molto presa da me stessa naturalmente, e quindi non rispondeva a tutte le innumerevoli lettere che ricevevo. Lo faceva mia madre a volte, perché le dispiaceva molto. Sarà ancora più cosa. Dispiaciuto che il sogno è finito, sua madre. Ma inizialmente sì, poi secondo me ci ha messo una pietra sopra. Ma nella vostra famiglia il punto di attenzione massimo, immagino che era la bambina prodigio. No, io ho anche un fratello che è un atleta, che è stato campione mondiale, quindi una famiglia... Quindi hanno fatto un bel investimento. Sì. Leggo qualche messaggio su Facebook, che naturalmente con il privilegio dell'anonimato e del nascondimento della loro voce sono un pochino più aperti. Vediamo un po', perché non riflettiamo sui danni prodotti dall'Auditel, dice Fabio. Dobbiamo acquistare format stranieri, le stronzate non siamo in grado di inventarle anche noi, guardi che siamo maestri in questo, basta guardare la nostra fiction e paragonarla con i telefilm americani, vediamo che siamo in questo abbastanza imbattibili nel confezionare banalità e prodotti di scarso o basso livello. Emiliano, io non mi vergogno ad ammetterlo, guardo L'Isola dei Famosi, vedo Un posto al sole, Beautiful, ma mai Contenitori domenicali su Canale 5, proprio non ci riesco. Poi andiamo avanti, è vero, io tecnologico di TV di ultima generazione, con DVD, cartoni animati, qualche gran premio, montaggi regolarmente, MotoGP regolarmente visti in diretta, qualche TG per abitudine. Ormai feeder RSS sono la mia fonte di aggiornamento. Sono coloro che mettono in rete programmi televisivi, permettono la fruizione di questi programmi via streaming a tutti i loro amici. Roberta dice: uso la televisione di servizio, nel senso seguo soltanto programmi di informazione, ma nel senso che lo uso come accompagnamento acustico di sottofondo. Quando la casa è troppo silenziosa, sono cresciuto in una famiglia numerosa e chiassosa, accendo la televisione. La tengo accesa random, non importa quale programma, purché faccia compagnia. Un basso continuo sonoro per non sentirsi soli. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno Don Gianluca. Io coordino una società di produzione televisiva, da me sono passati praticamente più della metà della gente che fa televisione. Quindi ha fatto un sacco di soldi? No, purtroppo no. Ecco, perché... mi spiega perché non ha fatto soldi. Allora, la televisione è uno dei mezzi, entrare a lavorare in televisione, perché, con il più alto tasso di guadagno rispetto alla qualità oggettiva del prodotto che si sì, produce. Ma sempre per chi sta davanti alle telecamere, chi sta dietro alle telecamere, come noi purtroppo siamo soggetti alla legge di mercato, per cui è chiaro che la concorrenza e la competitività riducono enormemente. E naturalmente per abbassare il prezzo della propria prestazione si abbassa anche la qualità, e si vede la differenza quando appunto si vede un telefilm americano che in una sequenza sono capaci di fare 5, 6, 7 stacchi con telecamere diverse, e una fiction italiana che sembra ancora di vedere... Quando sono tre è già tanto. Infatti. Il problema sta anche in questo, nella qualità di ciò che si produce e nella gente che lo fa, e nella gente che è preposta a pensare queste cose. Nella qualità delle persone, perché comprarsi una telecamera e fare della buona televisione non ci vuole molto. Se uno guarda su internet ci sono dei prodotti fatti anche con una sola telecamera che sono assolutamente... Ecco, ma qual è allora il principio per cui c'è questo abbassamento di livello televisivo così forte, che si percepisce, adesso possiamo dire quello che vogliamo, ma la nostra produzione televisiva è di un livello rispetto ai modelli più conosciuti, livello veramente desolante. C'è un fattore economico dovuto ai budget destinati alla produzione tecnica che sono assolutamente risibili rispetto a quelli destinati... Ma perché si pagano troppo gli artisti, fra virgolette? Ma non è un problema di pagare troppo gli artisti, io non entro nel merito dei cachet degli artisti, perché per carità, se uno riesce a, diciamo, a commercializzare la propria immagine in maniera positiva, ben venga. Però il problema è che rispetto all'Inghilterra, alla Germania, noi italiani, pur avendo una tecnologia analoga, perché i nostri mezzi di produzione sono analoghi a quelli che usano gli inglesi, i tedeschi, noi realizziamo prodotti di serie C, neanche serie B, di serie C. Sì, la nostra sembra una TV parrocchiale, diciamocelo, sembra un filmino amatoriale costante, ormai si è persa anche quel senso e quel gusto estetico delle scenografie nei grandi programmi. Sono passati i tempi in cui c'erano grandi artisti, grandi scenografi a fare televisione. Oggi la televisione si fa con mezzi risicati anche dal punto di vista dell'immagine, brutte scenografie, brutte luci, brutto insieme, eppure costa tantissimo. Sì, costa tantissimo, bisogna vedere dove vanno a finire i soldi e in che cosa vengono spesi, questo è il problema. Ecco, allora esiste una sorta di... Non si possono fare programmi con 12 telecamere se poi le persone inquadrate sono 2-3, giusto per avere 12 telecamere. Normalmente sono il direttore di rete, il capostruttura e qualche politico di passaggio che battono le mani in platea. Sembra interessantissimo per il pubblico vedere la faccia del noce, però comunque è uno degli stacchi preferiti dei grandi programmi di Rai 1 il sabato sera. L'80% delle persone che fanno televisione non sono lì perché la fanno fare, sono lì per altri motivi, questo è il vero problema. Oh, ecco, in chiusura di questa seconda parte arriviamo a un dato che probabilmente raramente si parla: la visibilità televisiva è un valore fortissimo. Regalare presenza in televisione è molto meglio che regalare una pelliccia, regalare un diadema di diamanti, regalare un appartamento, e oggi chi può, chi ha potere e chi ha le leve per farlo promette e regala spazi televisivi come regalasse gioielli, e per questo la televisione è popolata da chiunque. Questa è la pelliccia, sarebbe una cosa fantastica, eh? No, non posso portare la pelliccia. Non può portare la pelliccia? Sono obiettore. Ah, obiettore di coscienza. Ma penso che la lascio qua. La lascia qui? Sì. E noi siamo ben contenti, la teniamo qua. Grande! La teniamo qua che e... Che brava! Faremo... Figurati, adesso si rifà perché non accettano più subito. Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque io non lo faccio, arrangiate. e così imparerà. Va bene? Arrangiato. Questo è un proverbiale passaggio della ruota della fortuna, anno 95-96, talmente proverbiale che ormai è diventato un cult su YouTube. Mike Buongiorno bacchetta Antonella Elia perché prende in giro la pelliccia dello sponsor, può fare l'uscita da giovane politicamente corretta, dice: non metto mai pellicce. E ricorda il vecchio Mike, il vero asse portante della televisione italiana, l'immarcescibile, l'immortale Mike, colui che portò dall'America insieme al piano Marshall anche l'idea che la televisione ci avrebbe salvato dall'inciviltà. Beh, gli ricorda, dice: guarda che questa pelliccia è il tuo pane, la televisione è fatta dallo sponsor, è inutile che tu cerchi di uscirne fuori salvandoti con questa uscita. Beh, Antonella Elia, favolosa ragazza nella Rai, è favolosa per la sua meravigliosa idea di marketing di andare al Costanzo Show a raccontare la sua imperscrutabile verginità proclamata e poi per andare a raccontare la sua meravigliosa deflorazione. Quindi un personaggio veramente potente, ma a distanza di decenni. Oggi la mente degli autori televisivi cosa ti ripropone in una prima serata basata sul tutti pazzi per la TV? Antonella Clerici, sempre più burrosa e gravida pure, fra l'altro, si mette insieme la piacevolezza della cucina, la piacevolezza del tepore familiare, presenta un programma fatto di residuati bellici della televisione e riappare nuovamente Antonella Elia e nuovamente ricorda con Mike la storia della sua cacciata dalla televisione. Tu sei una bella peperina, non avevi soggezione di lui, ha detto io me ne vado. No, ma lei poi è stata perdonata, ha lavorato con me. Sì, no, nel senso che tutti pensano che io sia sparita dalla televisione perché Mike mi ha fatta licenziare. No, non è vero, la vita mi ha portato magari a fare altre cose. Io, lui, è andata in America. Appunto, ecco. E poi anche ha fatto... Per fortuna ci ha fatto questa rivelazione, stavamo tutti per tagliarci le vene, immaginando perché Antonella Lia fosse stata cacciata dalla TV da Mike Buongiorno. Ma questa è semplicemente una prova della totale carenza ormai di inventiva. La televisione è un mezzo che non rischia più, ripercorre continuamente come fosse un prigioniero chiuso in una fortezza, che cammina lungo la propria cella e pensa che il mondo siano i passi che circoscrivono il perimetro della propria cella, e non fa altro che ripetere se stessa, celebrare se stessa, come se fosse una sorta di rituale che tiene ancora in vita le persone che l'hanno sempre fatta negli ultimi anni. Gaia Camossela invece... Tu anche sei una persona che è riuscita a sfuggire, volente o nolente, da questo meccanismo. Di tutte le tue amiche di Non è la Rai, chi ha potuto poi tesaurizzare, monetizzare il patrimonio di visibilità che ha avuto in questi anni? Beh, ma sei poche, mi sembra. A parte Ambra, beh, di cui abbiamo già parlato. Beh, ho visto negli anni Laura Freddi, ad esempio, che per molto ha fatto Buona Domenica su Canale 5. Romina Mondello, che è stata attrice di parecchi film, insomma, in realtà sono poche. Direi Miriana, ma Miriana per anni ha fatto La ruota della fortuna. Quindi l'ha seguito anche quello, come l'Elia. È stata sull'isola. Miriana Treisa. Esatto. Tu cosa fai invece adesso? Ma io adesso faccio il coach, mi dedico a dare una mano agli altri. Il coach è una nuova figura. Sì, è una specie di aiutante, consigliere, non psicanalista. Esatto, sì, e mi piace molto, insomma. Hai studiato per fare il coach? Ho studiato, sì, ho fatto un corso, mi sto certificando per essere proprio in regola, siccome poi di coach ce ne sono molti un po' inventati, diciamo che io ho fatto le cose per bene. Ma della tua passata fama non ti serve assolutamente a nulla in questo mestiere? La mia passata fama? No, essere invitata per esempio. Vabbè, questo da è un puro caso, perché mi hai contattato te su Facebook, se no nemmeno sapevo della tua esistenza. Quindi è talmente lontano ormai il ricordo delle meravigliose ragazze nella Rai, che a parte Ambra mi sembra siano tutte entrate poi nel grigio mondo dell'anonimato. Sentiamo adesso Mariolina. Mariolina, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Allora, io le dico prima di tutto cosa guardo la televisione. Io e mio marito, parlo anche per lui. Lei quanti anni ha? L'accendiamo solo la sera, guardiamo i film che eventualmente registriamo la notte, poi li guardiamo la sera, quelli belli. Quindi siete molto tecnologici? Beh, insomma, non molto, no, non molto. Poi i dibattiti politici a me piacciono sempre moltissimo e i documentari storici. È chiuso. Ogni tanto, soprattutto io perché mio marito si rifiuta, passo e guardo qualche cosa dei reality. Lei ha 70 anni, mi sembra, dalla scheda. 72. Lei rappresenta, diciamo, il campione medio dell'Auditel italiano. Spero, perché io la guardo, penso, abbastanza poco, 3 ore, 3 la sera, basta, ecco. E durante il giorno tutti quei bei programmi di cucina con la Clerici, quei meravigliosi pomeriggi? No, non lo accendiamo mai, perché il nostro orario è la sera con le 8:10, con 8:30. Ma aiuta anche a conciliare il sonno, in effetti, la televisione della sera. Oh sì. Si passa meravigliosamente dal divano al letto senza nemmeno accorgersi. Però io adesso ho imparato che lavoro un po' all'uncinetto a maglia, così mi tengo sveglio. Va bene, grazie signora. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Io volevo portare la mia esperienza familiare, esperienza fatta da me che vede la televisione sotto Sky, quei programmi tecnici, costruzione di moto, di palazzi, di, insomma, molto tecnici, ingegneristici, e a volte qualcosa di informazione. L'altra parte fatta da mia moglie e mia suocera, che non vive con noi ma che condivide gli interessi di mia moglie, che divorano avidamente reality, tronisti e tutti questi generi di trasmissioni. Li divorano avidamente e poi scambiano tra di loro impressioni, informazioni, e poi attingono informazioni. Vabbè, è un meraviglioso strumento per almeno avere degli argomenti per poter parlare fra nuora e suocera. Michele invece, buongiorno. Alessandro. Alessandro, sono qua. Buongiorno Nicoletti. Siamo in conclusione, quindi sia veloce. Io velocemente. Allora mi ricollego al primo intervento. Inizio a parlare di quello che leggo. Io leggo moltissimo, almeno 4 libri al mese, 4 giornali al giorno. Faccio il giornalista, per cui. Però c'è un appuntamento immancabile il sabato sera, che è quello con Maria De Filippi. Ah, ecco, bello. Quindi ha coraggio di ammettere questa cosa. No, lo faccio con grande... Perché la visione, io guardi, e lo dico in conclusione, io coniai una volta un termine pensando a Gigi Marzullo, l'effetto gatto spiaccicato. E Marzullo mi sembrava perfettamente corrispondente a questa mia teoria. Quando noi passiamo lungo la strada e vediamo un gatto spiaccicato, le gambe all'aria, le budella di fuori, ci fa schifo, ma non possiamo fare a meno di seguire sullo specchietto retrovisore questa visione orribile, perché è l'orrore che ci attira. E se l'orrore ci attira, evidentemente chi confeziona orrore va incontro al nostro desiderio. È d'accordo? Assolutamente. Anzi, forse più che per me non è tanto la vista del gatto spiaccicato, ma quando ci si passa sopra con la ruota, quel rumore di ossa frantumate che ancora di più rimane dentro, e però diventa quasi una piccola soddisfazione. Ecco, alla fine. Ma rivolto alla televisione, questo piacere estremo, come potrebbe realizzarlo? Prendendo la martellate? Guardando Maria De Filippi, poi c'è il dispiacere che ne viene, è quasi uguale a quello del gatto. Va bene, questa vergognosa confessione dannerà la sua anima e renderà impossibile la sua vita sociale. La saluto, la ringrazio, l'appuntamento per domani. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.